in primo piano. Beh, oggi troverete dappertutto in prima pagina la foto, le dichiarazioni del ministro dell'economia Tremonti, sui che si schiera a difesa del posto fisso. È più o meno l'apertura univoca dei giornali, a parte il Corriere della Sera che apre su Lodo Alfano i motivi del no. La Consulta, il capo del governo non è al di sopra dei ministri. Il Sole 24 Ore invece di mercati ripresa, borse euforiche, Bernanke frena sul rally di Wall Street, record investitori esteri sui T-bond. Però anche su Corriere Sole 24 Ore in prima pagina c'è ampio risalto alle parole di Tremonti, che sono, come detto, l'apertura della gran parte dei giornali. La Repubblica, Tremonti sì al posto fisso. La Stampa, lo stesso titolo. Il Messaggero, Tremonti credo nel posto fisso. Il Giornale, viva il posto fisso senza fannulloni. Il pentimento di Tremonti per Libero, per l'Unità addirittura c'è una foto di Tremonti comunista col punto esclamativo. Anche gli altri di Sansonetti, Tremonti è diventato comunista, punto esclamativo anche lì. Insomma, come avete capito, il tema da cui voglio partire è questo. Il Sole 24 Ore, pagina 5, Tremonti si schiera a difesa del posto fisso. La stabilità del lavoro è un obiettivo fondamentale. E c'è Giorgio Pogliotti che scrive di questa indagine della UIL. A giugno 2009 erano in cassa integrazione 470.000 persone. Per effetto della crisi, nel giro di un anno, scrive Pogliotti, si sono persi 557.000 posti di lavoro, in aggiunta ai 470.000 che sono a rischio, essendo in cassa integrazione. È una stima della UIL che ha messo a confronto l'andamento del mercato del lavoro tra giugno 2008 e giugno 2009. Tra l'altro si legge poi in una serie di dati tutti molto interessanti, sul totale di 17.815.089 nuove comunicazioni di instaurazione di rapporti di lavoro, il 62,6% ha riguardato i contratti a tempo determinato. Il 23,9% i contratti a tempo indeterminato, il 7,3% collaborazione a progetto e via via poi l'apprendistato e i tirocini, eccetera. Più colpite le lavoratrici in questa indagine della UIL. Ma davvero c'è da dire che sono numerosi i commenti, le interviste. La Stampa, per esempio, a pagina 3 intervista Giorgia Meloni, che è la ministra dei giovani, della gioventù. Sono d'accordo con Tremonti, ma i giovani vogliono anzitutto un impiego, vogliono un lavoro che dia loro un reddito. Credo che i giovani, però, dice la Meloni, non desiderino entrare in un posto a 20 anni e uscirne a 65 senza cambiare mai. E alla domanda di Raffaello Masci, ma mi scusi, anche lei, eravate voi di centrodestra che avete fatto la legge Biagi nel 2003. Io allora non ero al governo, dice la Meloni, ma comunque ritengo che quella legge non sia stata sempre applicata adeguatamente da parte degli imprenditori. E a proposito di imprenditori o imprenditori politici, sempre sulla Stampa, Massimo Calearo del PD risponde in maniera molto dura, invece dice tutta demagogia le parole di Tremonti, dicono una cosa e poi fanno l'opposto, demagogia allo stato puro da parte di un ministro dell'economia che dice il contrario di quello che fa. La proposta di una persona che conosce prende in grande considerazione solo le grandi imprese, che sono pochissime, quando la spina dorsale del paese è costituita dalle PMI che oggi sono in gravissima difficoltà, dice Calearo. Ma continuando, voglio dire, nelle tante segnalazioni di interviste, parla a Repubblica, sempre su questo tema, ha scatenato davvero un putiferio di dibattito le parole di Tremonti, parla Renato Brunetta, ricette del secolo scorso, Giulio sogna una società di salariati. Tremonti vorrebbe una nuova società di salariati, solo che questa non risponde alle esigenze di flessibilità che pone il sistema. La sua è una soluzione del Novecento che non va più bene in questo secolo, dice Brunetta. E alla domanda, ma Tremonti difende anche il modello di welfare italiano, INPS e famiglia, lei è d'accordo? Viva gli ammortizzatori sociali, in questo senso ha ragione, però bisogna anche dire che i paesi con un welfare pesante sono anche quelli che crescono di meno quando riprende il ciclo. E poi Brunetta dice, quindi alla domanda deve cambiare anche il sindacato, tutte le rappresentanze sociali, sia imprenditoriali sia sindacali, sono figlie del Novecento, ma è un modello che sta implodendo nella sterilità, nell'occupazione che non si crea più. Insomma, un Brunetta un po' critico, più critico che favorevole a Tremonti, stupito sempre per i commenti e le interviste, Sergio Cofferati. Oggi fa l'eurodeputato dopo essere stato sindaco di Bologna, ma insomma sindacalista soprattutto. Un cambio di rotta stupefacente, dice all'Unità in un'intervista a Laura Matteucci a pagina 13. Dopo le opinioni, ora il ministro cambi i fatti. Non so cosa sia stato a fargli cambiare idea, di sicuro è una tesi che non gli avevo mai sentito esporre, dice Cofferati. Ma se ne è davvero convinto, ci stupisca coi fatti e non con le parole. Insomma, tantissime le interviste. E su questo tema voglio ricordare anche un'intervista che al Quotidiano Nazionale, però su altri temi, fa invece il ministro del welfare Sacconi. Parla del clima attuale, un clima anche molto imbarbarito nel linguaggio, un clima che, dice Sacconi, attenzione, va fermato, troppi insulti, qui si rischia il morto. Questo è il titolo dell'intervista al Quotidiano Nazionale a Paolo Giacomin di Sacconi. La politica non aspetti il morto per riflettere sul linguaggio violento, sulla violenza verbale che da tempo si è scatenata contro le istituzioni rappresentative democraticamente elette. E questo è l'appello di Sacconi, che dice: lo Stato ha sconfitto militarmente il terrorismo e la storia non si ripete. Oggi però c'è un clima di violenza verbale contro le istituzioni, le figure appunto democraticamente elette. Questo clima può incoraggiare persone fragili, anche psichicamente, a compiere gesti di violenza. E ancora, dice Sacconi, temo il gesto del folle, ma non dimentico che in Italia esiste ancora un pulviscolo ideologico antagonista dal quale può maturare il gesto estremo. Temo, proprio perché non ci sono organizzazioni, che a farne le spese possono essere obiettivi minori, persone che hanno incarichi pubblici non di primo piano, magari a livello locale, che conducono una vita normale senza particolari accortezze, obiettivi difficili da proteggere. Dunque, questo è l'allarme, insomma, lanciato da il ministro Sacconi. Beh, voglio lasciare questo tema per arrivare all'altro che trovate, che come detto è per esempio l'apertura del Corriere della Sera sul lodo Alfano, i motivi del no. Ci sono le motivazioni della sentenza, le trovate anche in realtà su Repubblica, su tutti i giornali. Le motivazioni della sentenza, il Corriere della Sera, la Consulta e il no al lodo, disparità di trattamento. Cosa ha deciso sostanzialmente la Corte Costituzionale? Che la norma introduceva una disparità di trattamento perché considerava il Presidente del Consiglio preminente rispetto ai ministri. Invece questa differenza non è configurabile secondo la Consulta, e dunque ecco perché la bocciatura del lodo Alfano. C'è un commento di Vittorio Grevi, che insegna procedura penale, insomma è anche commentatore di questi temi per il Corriere. La linea di coerenza dell'Alta Corte. Con il deposito della sentenza sul lodo Alfano, la Corte Costituzionale, scrive Grevi, ha smentito in modo netto quanti nei giorni scorsi le avevano addebitato un incomprensibile mutamento di giurisprudenza, addirittura accusandola di avere tradito la linea e la fiducia del capo dello Stato. In realtà le cose non stavano così, come si sapeva benissimo nel mondo degli addetti ai lavori. In realtà, infatti, solo a prezzo di improbabili acrobazie argomentative si sarebbe potuto sostenere che un privilegio processuale come lo scudo immunitario prefigurato dal lodo Alfano, quale prerogativa delle alte cariche dello Stato, potesse venire introdotto attraverso una legge semplice, ordinaria. In realtà a nessuno poteva sfuggire che, trattandosi di una palese deroga al fondamentale principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione, la relativa previsione dovesse assumere il rango della legge costituzionale. E dunque Grevi dice, con questo commento, che in realtà non c'è stato da parte della Consulta nessuna cambio di marcia rispetto alla giurisprudenza di qualche anno fa sul lodo Schifani. È il titolo di apertura del Fatto Quotidiano, la Corte sbugiarda B, B starebbe ovviamente B puntato per Berlusconi, la sua legge non vale nulla, si legge nel titolo d'apertura. All'interno il titolo del servizio è: lui non è più uguale degli altri. Rimanendo in tema politico, trovate alcune interessanti interviste sia sul Corriere della Sera che su altri giornali sul tema del rapporto tra politica e insomma anche criminalità organizzata. Per esempio, il caso Campania per il PD. Cosa è successo? Nei giorni scorsi si è scoperto che a Castellammare di Stabia un camorrista iscritto al PD ha ucciso un consigliere comunale del PD. E poi si è scoperto che anche Carolina Mosca, moglie del boss Pasquale D'Alessandro, risulta iscritta al partito. E non solo, Anna Paola Mormone, dirigente del PD a Castellammare, si autosospende e dice: avevo già denunciato tutto, ma dal PD non mi hanno fatto sapere nulla. È questo l'inizio dell'articolo di Alessandro Trocino, che intervista chi? Il commissario del PD per la campagna, Morando, che in una lunga intervista dice: sulla camorra dovevamo fare di più, darò ora ai magistrati gli elenchi degli iscritti. E insomma, Morando dice effettivamente che ci sia un problema grave su iscritti e tessere è fuori discussione. A Castellammare, per esempio, c'è stata un'infiltrazione, inutile negare l'evidenza. Siamo intervenuti in caso di segnalazioni specifiche, ora ci vogliono misure drastiche come l'azzeramento di tutti i tesserati a Castellammare e poi porterò agli inquirenti gli elenchi degli iscritti, rendendoli pubblici e dando loro la massima diffusione. Questo per quanto riguarda il PD, ma sulla campagna c'è un tema di discussione, una battaglia, secondo il Corriere della Sera, ma anche secondo la stampa, secondo Repubblica, per la possibile candidatura di Cosentino alle regionali della campagna. Chi è Cosentino? È un sottosegretario all'economia del governo, è nato a Casal di Principe e è stato, secondo l'Espresso, tirato in ballo da alcuni pentiti per collusioni con i casalesi. Battaglia su Cosentino, candidato delle polemiche. Questo è il titolo del Corriere della Sera, ma anche l'ombra delle inchieste sul PDL in Campania, a rischio la candidatura di Cosentino. Questo invece è il titolo della stampa. Oggi è previsto un incontro con Fini e, secondo il Corriere della Sera, su Cosentino, scrive Fulvio Bufi, resta l'ombra di un'inchiesta della Procura Antimafia di Napoli basata sulle rivelazioni dell'imprenditore Gaetano Vassallo, che ha confessato ai magistrati di avere smaltito rifiuti tossici per conto della camorra, chiamando in causa, oltre a politici e manager locali, anche il sottosegretario all'economia. Ne parlò l'Espresso nel settembre del 2008. Da allora l'inchiesta è andata avanti, i pubblici ministeri sono arrivati alle richieste di provvedimenti che ora sono al vaglio del GIP. Anche se Cosentino dice, e in questo confortato dai fatti, su di me non c'è alcuna inchiesta. E scrive per esempio Guido Ruotolo sulla stampa: di recente il procuratore generale Galgano, in un'intervista al procuratore di Napoli, ha detto: io non ho elementi dai quali mi risultino circostanze di inchieste. Per quel che mi riguarda, allo stato Cosentino è una persona nei cui confronti non ho nulla da ridire. Insomma, questa è la politica che trovate sui giornali. Trovate anche altro, per esempio molti ancora i commenti sulla proposta dell'ora di religione islamica. Ripartiremo da qui dopo il traffico. In primo piano. Avanti su elezioni e cittadinanza, ma si studi solo l'identità cristiana. E questo è il titolo di un'intervista a Pier Ferdinando Casini dell'UDC. Parliamo di ora di religione islamica, la proposta del viceministro Urso. Casini dice: è una proposta magari generosa, ma dimostra una confusione grande. Questo nell'intervista a Paola Di Caro. Sarebbe la premessa di un multiculturalismo che non accoglie, ma è solo cedimento alle idee altrui. Ma sono diverse le interviste. Per esempio, il leader storico delle comunità ebraiche, Amos Luzzatto, fa un'intervista a Repubblica: ogni bambino ha il diritto di leggere il libro dell'altro. Cioè, cosa dice Luzzatto? La vera integrazione sarebbe una società in cui l'Islam viene studiato dal bambino ebreo e quello cattolico. Ognuno deve insomma studiare le religioni dell'altro. Obiettivo sicuramente alto, dice Luzzatto, ma certamente interessante. Per quel che riguarda la Padania, il titolo è inequivocabile: radici cristiane, altro che Islam. E vi ricordo che questo è il sondaggio nostro di oggi. Dovete votare su radio24.it, nella home page trovate bianco o nero la sezione dove c'è il nostro sondaggio. Che ne pensate voi dell'ora di religione islamica a scuola, la proposta del viceministro Adolfo Urso, che sarà nostro ospite, ve lo preannuncio. Lì votate, o il sole24ore.com, alle 8:30 ne parleremo approfonditamente. Voglio ritornare sul Fatto e sulla Stampa. Perché? Perché mettono lo stesso tema, anche se trattato in modo diverso. C'è sul Fatto un'inchiesta dal titolo Quei martiri italiani chiamati pendolari. Maurizio Chierici fa un resoconto di due pagine tra sporcizie, abbandono, la vita di chi viaggia in treno, il popolo che ogni giorno combatte con le fermate soppresse, i disagi. Queste due pagine interessanti, e perché le leggo alla Stampa? Perché la Stampa ha fatto un forum invitando Mauro Moretti, l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, in un'intervista di due pagine, dice: treni migliori, pagate di più. E inizia così, è incentrata moltissimo proprio sulla vicenda dei pendolari, questa lunga intervista a Mauro Moretti. La Toscana, dice Moretti, ha fatto un'indagine sui viaggiatori dei treni regionali. Il 78% si dice soddisfatto. È una notizia. Perché lì sono contenti e altrove no? E poi dice: sono le regioni a stabilire quanto far pagare gli utenti, quanto porre a fiscalità generale. Ci vuole per noi concretezza, o ci sono i quattrini per fare il servizio di qualità o non ci sono e si dà il servizio che si può. Per avere di più bisogna pagare di più, dice Moretti. E poi all'accusa di aver creato una sorta di Italia a due velocità, la freccia rossa e il carro bestiame, dice: le ferrovie in Italia sono del tutto liberalizzate, chiunque vuole può fare business. Vi siete chiesti come mai non c'è nessuno? E poi ancora Moretti che dice: l'alta velocità è costata il quadruplo del resto d'Europa. Beh, certo, il problema è il territorio italiano, senza spazi liberi, tanti piccoli centri, case, strade. E poi vengono richieste opere aggiuntive. Per esempio a Vercelli abbiamo dovuto fare le finestre per le risaie, alte 3 metri sul terrapieno. Bisogna chiederne conto a chi ha fatto queste e altre richieste. Infine, questa interessante, lunga intervista, ingegner Moretti, lei quanto guadagna? 680.000 euro più 150.000 legati ai risultati. C'è chi prende il triplo per leggere i contatori, ma gli elettroni non deragliano. Insomma, anche molto polemico Moretti in questa chiusura. Voglio andare, per trattare di temi affini, insomma, di economia, un'interessante pagina che trovate sul Sole 24 Ore, la trovate un po' dappertutto questa notizia, l'abbiamo sentita anche in GR 24 da Marco Mele. Marco Mele, che proprio anche sul Sole 24 Ore parla di questa nuova offensiva di Sky. Sky all'offensiva sul digitale. Che ha fatto Sky? Ha lanciato una chiavetta USB per vedere tutti i programmi che sono criptati sul satellite. C'è stata anche una diatriba, una lotta con la Rai, insomma, che aveva tolto i propri canali dalla piattaforma di Sky. Ebbene, Sky batte un colpo, dice Marco Mele, con questa chiavetta che si potrà comprare a 19 euro, si potrà vedere sostanzialmente e tutti i programmi gratuiti sul proprio decoder, i canali digitali terrestri. La Rai, scrive Marco Mele, come le stelle sta a guardare. Voglio chiudere con questa notizia di cronaca che a me ha sconvolto, ma l'abbiamo sentito, la notizia: elettricità tagliata, bimbo ucciso dal braciere a Napoli. E voglio chiudere con leggendo quello che ha scritto Massimo Gramellini, che ogni giorno scrive il Buongiorno da 10 anni sulla Stampa. I miserabili. A Napoli un bambino è morto a 6 anni di povertà. Veniva dall'isola di Capoverde, ma sapeva già leggere e scrivere in italiano. Era educato, ordinato, molto pignolo, dicono le maestre. Amava il disegno e sognava di fare l'ingegnere. Si chiamava Elvis, come l'eroe del rock. Lo hanno trovato per terra in una stamberga di 20 metri quadri, polmoni intasati dall'esalazione di un piccolo braciere. Da quando l'Enel aveva staccato la corrente che alimentava la stufetta elettrica, quel fuoco improvvisato e velenoso era diventato l'unica fonte di riscaldamento di tutta la famiglia. Non c'era altro calore, non c'era più cibo, ed Elvis se n'è andato così, addosso alla madre agonizzante, la testa appoggiata al ventre da cui era uscito 6 anni prima per la sua breve e infelice partecipazione alle vicende del pianeta Terra. Mi sento totalmente inutile come giornalista e come essere umano, perché mi tocca ancora raccontare storie del genere nel mio evoluto paese. Ci riempiamo la bocca, io per primo, di parole superflue, ci appassioniamo di problemi di minoranze potenti e arroganti, e accanto a noi, in un silenzio distratto, si consumano le disfatte degli umili e dei mansueti. Persone come la mamma di Elvis, che fino all'ultimo ha provato a raggranellare onestamente qualche soldo per la stufetta andando in giro a fare le pulizie. Il bene ieri ha perso di brutto. L'importante è rendersene conto, non distrarsi, non rassegnarsi, organizzare la riscossa. anche per Elvis, che tornerà a trovarci ogni giorno sulla faccia di tanti bambini uguali a lui. Questo è il buongiorno di Massimo Gramellini, sicuramente anche un pugno nello stomaco, ma voglio concludere così la rassegna stampa. Vi ricordo il sondaggio alle 8.30, che ne pensate dell'ora di religione islamica a scuola? Votate su radio24.it, ci sentiamo dopo GR24.